loro reportage. Spazio Schengen, rischio implosione? Di Sergio Nava. L'applauso liberatorio sigilla il 23 marzo 2016 il lungo e intenso minuto di silenzio in piazza della Borsa a Bruxelles. Il giorno dopo gli attentati all'aeroporto di Zaventem e alla stazione della metropolitana di Malbec, il Belgio prova a scrollarsi di dosso l'incubo terrorista. Ma non è solo il piccolo stato del nord Europa ad essere finito sotto attacco, l'intera Unione Europea è sotto una tremenda pressione da circa un anno. Dopo la crisi finanziaria che ha scosso le fondamenta dell'euro, un altro cardine del progetto comunitario è nel mirino e ormai a serio rischio implosione, lo spazio Schengen. L'ondata migratoria prima che prosegue minacciando un'altra estate di crisi e gli attacchi di matrice islamica poi a Parigi e Bruxelles hanno nei fatti congelato lo spazio di libero movimento e circolazione europeo. Al di là delle parole e delle rassicurazioni, Schengen è in coma. In questo reportage da Bruxelles, a poco più di un mese dagli attentati che hanno scosso la capitale europea, cerchiamo di capire quanto l'effetto combinato di queste due crisi possa finire col consegnare Schengen agli archivi della storia. Non dobbiamo esagerare parlando della fine di Schengen, dice a Radio 24 il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che incontriamo nel suo ufficio a Bruxelles. Schulz cita il caso austriaco e i controlli al Brennero. Non sono d'accordo con le misure al Brennero, è un fraintendimento, è come costruire una barriera intorno al proprio paese. Le persone che fuggono dall'ISIS o dal regime di Assad non saranno certo fermate da queste barriere. Io non penso ciò rappresenterà la fine di Schengen. Il 90% dei confini di Schengen sono aperti, non creiamo problemi che non esistono. Ovviamente dobbiamo rafforzare i controlli ai confini comunitari. In questo senso il recente Migration Compact presentato dall'Italia lo prevede. Questo è uno strumento migliore per risolvere il problema, dice Schulz. Il presidente del Parlamento europeo, come anticipava, è favorevole alle proposte italiane sull'immigrazione. È normale che il premier di un paese fortemente toccato dal problema migratorio rediga una lista di proposte. Che siano state accolte con freddezza a Berlino non significa che non siano fattibili. Si tratta di proposte che intendono combinare in modo più efficace cose che già facciamo. Sui bond sappiamo che la Germania ha una certa riluttanza in materia, ma penso non sia vietato discuterne. Io penso che dobbiamo discutere quali siano gli strumenti più efficaci per rafforzare e aiutare l'Africa. Questo è anche l'obiettivo dell'iniziativa italiana. Con Martin Schulz affrontiamo anche l'altra crisi che sta minando alla base Schengen, la minaccia terrorista. L'Europa ha davvero una strategia a riguardo? Sono membro del Parlamento europeo da 22 anni. Nel mio primo mandato mi occupavo di giustizia e affari interni. Se io le ristampassi i miei discorsi di 22 anni fa, scoprirebbe che sarebbero valide ancora oggi. Già allora dicevo che abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione europea contro terrorismo e crimine organizzato, che abbiamo bisogno del rafforzamento della cooperazione di polizia, di uno scambio automatico di informazioni, di un coordinamento a livello europeo. Tutto questo ancora manca e mi irrita sentire i discorsi dei ministri dell'interno quando chiedono di raccogliere informazioni su chiunque, salvo poi dire che non intendono scambiarle. Questa è una contraddizione in termini. Non so se abbiamo bisogno di una FBI europea, ma abbiamo bisogno di una protezione più efficiente dei nostri cittadini attraverso una cooperazione più efficace delle polizie, chiosa amaro Martin Schulz. Scindiamo ora le due crisi che minacciano Schengen, immigrazione da una parte e terrorismo dall'altra. Partiamo dalla prima. Sulla proposta italiana di una Migration Compact è fiducioso il capogruppo dei socialisti e democratici all'Europarlamento Gianni Pittella. Io sono molto fiducioso anche perché la obiezione della Germania non riguarda l'intera proposta ma un punto, seppur significativo, cioè lo strumento da usare per finanziare queste iniziative. Io penso che la Germania debba rivedere questa ostilità su questo punto. Gli eurobond non possono essere, diciamo, una specie di incubo notturno sempre per i tedeschi. Insomma, ogni volta che si pronuncia questa parola gli viene l'idrofobia ai tedeschi, soprattutto a Schäuble. Devono capire che proporre oggi una tassa sulla benzina, quella sì è una cosa davvero incandescente, che darebbe linfa alle destre xenofobe che strumentalizzerebbero questa proposta, mentre invece la condivisione dei pesi quando si tratta di gestire un tema che non è un tema italiano, ma è un tema europeo, è la migliore soluzione. D'altra parte vorrei sommessamente ricordare che quando si è trattato di fare l'accordo sulla Turchia, per securizzare la rotta che riguardava i tedeschi, noi siamo stati solidali. Questo Migration Compact ha alla base un concetto che in realtà non è nuovo: aiutare e cooperare con i paesi di origine o di transito, quello che l'Unione Europea di fatto sta cercando di fare da diversi anni. La proposta italiana, secondo lei, poiché arriva dal suo partito anche, in cosa si differenzia realmente, in cosa può avere maggiori possibilità di successo di quella che finora ha avuto la strategia europea sull'immigrazione? Ma la proposta italiana cambia l'approccio, nel senso che dice: investiamo copiosamente nello sviluppo dei paesi africani, creiamo nei paesi africani dei centri di accoglienza e di verifica, i famosi hotspot, facciamoli d'intesa con le autorità africane, facciamo una lotta anche attraverso la Guardia Costiera Europea, che, alla cui definizione stiamo lavorando con una direttiva europea, facciamo la lotta insieme ai trafficanti della morte. Cioè, o si capisce, e l'Italia l'ha capito, l'ha messo sul tavolo, che è fondamentale il rapporto con l'Africa anche per gestire il tema immigrazione e rifugiati, oppure siamo su un altro pianeta. È importante il tema del finanziamento, perché queste iniziative si possono fare se c'è una corposa posta finanziaria. Non si può dare 6 miliardi alla Turchia e dare 1,8 miliardi all'Africa. Su Schengen, al di là delle parole, possiamo dire che nonostante tutto sia virtualmente in coma? Schengen ha avuto parecchi colpi in questi mesi, colpi veramente formidabili, e devo dire anche da attori che a sorpresa, che io francamente dall'Austria non me lo sarei aspettato. Bisogna reagire per evitare la morte di Schengen, perché la morte di Schengen potrebbe significare la morte dell'Europa. Molto critico sull'atteggiamento dei paesi europei verso la crisi migratoria invece Yves Pascua, direttore delle politiche di migrazione allo European Policy Center. Au regard de la crise, il n'y a pas vraiment de stratégie migratoire. L'Europa non ha una vera strategia migratoria, dice Pascua. I paesi membri non hanno voluto prevedere l'arrivo di un numero importante di migranti, anche se tutti i segnali lo facevano ipotizzare. I paesi membri considerano a tutt'oggi le politiche migratorie come politiche nazionali e non pensano a questo dossier in termini europei. Non ci sono politiche comuni. L'unica politica comune è una politica dell'emergenza per rispondere a un fenomeno legato all'instabilità del nostro vicinato. La nostra è una crisi di pianificazione e reagiamo solamente all'emergenza, afferma Yves Pascua. E dunque oggi rispondiamo all'urgenza. Dalla crisi migratoria alla seconda crisi che minaccia lo spazio Schengen, quella terrorista. Timothy Kirkhope, eurodeputato conservatore, ha seguito personalmente l'approvazione della direttiva PNR sullo scambio dei dati dei passeggeri aerei e delle normative comunitarie sul terrorismo. Con lui partiamo parlando proprio della recente approvazione del PNR. Non ho mai rivendicato che questa direttiva sarebbe stata la soluzione magica a tutti i problemi, ma sono convinto che si tratti di uno strumento importante nelle mani della nostra intelligence e polizia per individuare e tracciare terroristi e criminali che vengono in Europa o viaggiano in Europa. Dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta, ora incoraggio le agenzie di sicurezza a usarla, dice Kirkhope. Ma l'Europa ha una vera strategia contro il terrorismo? Chiediamo a Timothy Kirkhope. We've got loads and loads of European strategies. Abbiamo tonnellate di strategie europee, su tutto, forse ne abbiamo troppe. Ciò di cui abbiamo realmente bisogno è guardare alle normative già esistenti e pensare a come implementarle meglio. Questo è stato l'errore della Commissione europea, liberarsi di tutto ciò che non si riteneva funzionare. Io penso che l'ipotesi di una FBI o CIA europea sia peggiorativa, perderemo degli ottimi assets esistenti. Alcune delle agenzie di intelligence europee sono le migliori al mondo. Avere più agenzie che scambiano dati tra di loro è meglio rispetto a un'unica agenzia centralizzata. È pur vero che finora non abbiamo visto abbastanza cooperazione tra le nostre agenzie, conclude Kirkhope. Torniamo ora alla domanda di partenza della nostra inchiesta. Esiste una reale strategia europea contro il terrorismo? Lo abbiamo chiesto a Sandro Menichelli, consigliere per la giustizia e affari interni presso la rappresentanza permanente italiana all'Unione Europea. Assolutamente sì, perché esiste non solo una strategia dell'Unione Europea contro il terrorismo, ma dell'Unione Europea e dei paesi associati, perché in questo tutte le presidenze che si sono succedute negli ultimi anni, a cominciare da quella italiana, hanno cercato di mettere a fattor comune non solo tra gli stati membri, ma anche i paesi associati, tipo la Norvegia, la Svizzera, l'Islanda, questo tipo di strategia. Perché le preoccupazioni sono le stesse, il fatto di essere dentro l'Unione Europea o fuori l'Unione Europea non toglie nulla all'esercizio. La strategia dell'Unione Europea si basa sostanzialmente su tre grandi filoni: una strategia contro la radicalizzazione e il reclutamento, una strategia nei confronti dei foreign fighters e una strategia più ampia per la sicurezza interna. Per concludere, è molto critico sugli sforzi europei nel varare una strategia comune contro il terrorismo Steven Blockmans, capo dell'unità di politica estera europea al Center for European Policy Studies di Bruxelles. If there is a strategy, I haven't seen it yet. Se c'è una strategia europea contro il terrorismo, io non l'ho ancora vista, dice Blockmans, senza mezzi termini a Radio 24. Una strategia implica un documento coerente che indichi un percorso verso cui intendono procedere gli Stati membri e l'Unione, delineando in modo obbligatorio le tattiche da seguire per arrivare a determinati obiettivi. C'è sì una approccio comprensivo contro il terrorismo, ma si tratta di una pletora di iniziative politiche che non si incastrano necessariamente in una strategia coerente, un po' una lista della spesa di misure, insomma, chiosa Blockmans. Fit into a coherent document which would be worthy of the name strategy. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.